Hey mama, mama guitar. Hey mama guitar. Oh bella mama guitar. Io t'amo mama guitar. E mama guitar val di più di cento tesor. E mama guitar val di più di cento amor. Tu la salti, poi la butti, la ripigli per suonar. Lei non piange, lei non grida e si lascia pizzicare. Hey mama guitar, val di più di cento tesor. Hey mama, mama guitar. Hey mama guitar. Oh bella mama guitar. Io t'amo mama guitar. Mama guitar val di più di cento tesor. E mama guitar val di più di cento amor. Tu la sbatti, poi la butti, la ripigli per suonar. Lei non piange, lei non grida e si lascia pizzica. E mama guitar val di più di cento tesor. E mama, mama guitar. E mama guitar. Oh bella mamma guitar, io t'amo mamma guitar. E mamma guitar val di più di cento tesor. E mamma guitar val di più di cento amor. Tu la sbatti, poi la butti, la ripigli per suonar. Lei non piange, lei non grida e si lascia pizzica. Hey mamma guitar val di più di cento tesor. Hey mamma, mamma guitar. Hey mamma guitar. Oh bella mamma guitar. Io t'amo mamma, io t'amo mamma, io t'amo mamma, io t'amo mamma, io t'amo.